Oltre le stelle, tra i pianeti, gli anelli qua attorno, nella luce pura del sole che a mezzogiorno spicca sull'abisso, spacca pietre di fisso, masticandole con gusto come un reganisso. Nello spazio interstellare ricerco le soluzioni, calibrando con i suoni tutte le mie vibrazioni, cancellando le tensioni, riordinando le emozioni. Vego supernova, primeggia tra le esplosioni. Cerco l'armonia in un'altra costellazione, unendo, amalgamando la scienza e la religione, annullando le barriere imposte dalla tua ragione, che metta la tua mente le sbarre di una prigione. Insetto nell'immenso frutto tra i satelliti, nella catastrofe italiana paio tra i superstiti. Confronto a una galassia, sono insignificante, ma tra i tuoi rapper preferiti io resto un gigante. Adelante, cerco di raggiungere una meta, a cavallo senza sella di una stella cometa. Prendo posto tra le stelle, qui nessuno lo vieta, ora che b-boy son cavalli sfatti di cheta. È il mio viaggio astrale con un'altra densità, non ho peso, non ho tempo, non ho altezza, non ho età. Chiudo gli occhi, mi concentro, dopo poco si va, volo verso i tuoi confini e mi proietto al di là. È il mio viaggio astrale fuori dalla carne, la mia essenza vola in alto insieme alla mia arte. Non lo puoi calcolare, non lo puoi esaminare, te lo posso anche cantare, ma poi lo devi provare. Quello che suonava mono adesso suona stereo, attraversando lentamente questo corpo etereo. Mano a mano mi allontano e ti sembrerà strano se cercandomi mi troverai disteso sul divano. Posso accarezzare i colori, gustare i suoni, i sapori in questo stato mi risultano più buoni. E tu mi sembri strana, stranamente solida, così densa da apparirmi addirittura alcolica. Io solco l'atmosfera, chiudo il mondo in una sfera, volo dove il pomeriggio si confonde con la sera, nuotando nel mattino dell'umanità intera. Troppi tipi, troppi luoghi sono ridotti a patto nera, le luci artificiali sono accese a festa, i clacson delle macchine mi danno in testa un pianeta nucleare con più nulla da testare, per le bestie su due zampe col tono di rovinare. È il mio viaggio astrale con un'altra densità, non ho peso, non ho tempo, non ho altezza, non ho età. Chiudo gli occhi e mi concentro, dopo poco si va, volo verso i tuoi confini e mi proietto al di là. È il mio viaggio astrale fuori dalla carne, la mia essenza vola in alto insieme alla mia arte. Non lo puoi calcolare, non lo puoi esaminare, te lo posso anche cantare, ma poi lo devi provare. Lo spazio si comprime in un piccolo istante, il tempo come lo conosci rimane distante, la sapienza è nella mente in quantità gigante, questo amore mi pervade in modo devastante. Take them, see me.